Dotazioni e comfort. L'ABS e il sistema di frenata combinata sono di serie. A pagamento solo lo schienalino per il passeggero. La sella è ampia e morbida e la posizione di guida rilassata offre un buon senso di controllo. Peccato per la scarsa protezione aerodinamica. Qualità percepita dalle finiture ai materiali, non ha nulla del veicolo economico, inoltre non ci sono cavi in vista. Prestazioni motore, il bicilindrico da 680 cc non brilla per vivacità, ma si adatta bene alla guida cittadina e vibra pochissimo. Tenuta di strada e guidabilità, più stabile e precisa di un maxi scooter, certamente più lenta di una moto vera. Ha dalla sua una maneggevolezza insospettabile. Le dimensioni, larghezza e interasse in particolare penalizzano gli slalom nel traffico, ma in città la DN01 se la cava complessivamente bene, alla pari di molti maxi scooter. Adattissima ai percorsi in relax e al misto aperto, a velocità autostradali risente della mancanza di un parabrezza adeguatamente ampio e alto. Freni praticamente perfetti per potenza e feeling trasmesso, molto appunto il sistema antibloccaggio. Prezzo, considerando i contenuti tecnici, il listino è da considerarsi favorevole. Paragonata ai maxi scooter, risulta comunque più cara.